America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Bisogna fare piano perché è molto presto a Washington questa mattina e tutti camminano in punta di piedi sulla erta, ertissima moquette della Casa Bianca, perché Barack è tornato ma è stanchissimo. Se poi per esempio vi impegnate ad andare a guardare l'agenda di lavoro del Presidente degli Stati Uniti per il weekend, ormai è un'agenda pubblica, ci sono siti che la mettono a disposizione di tutti i visitatori, beh, niente, non c'è scritto niente, non c'è una sola riga, tutto riposo, palestra, magari un po' di golf, magari la partita di calcio delle ragazze e magari perfino una cenetta con Michelle, che del resto non lo vede da un pezzo, è stato fuori più di una settimana. Tutto bene, perché poi da lunedì, caro Mr. President, si balla. Si balla perché non vanno bene le cose sul fronte interno. Sanità e clima di fatto non decollano, Guantanamo non chiude, la strategia afghana e il Medio Oriente sono ancora in attesa di queste prese di posizione che una volta per tutte daranno la linea di Barack Obama. In particolare l'incremento delle truppe in Afghanistan è la notizia che dovrebbe prendere forma nei prossimi giorni, prima della festa del ringraziamento. Anche il team economico di Barack Obama in questo momento è sotto tiro, perché la ripresa viene continuamente annunciata, ma di fatto i dati ancora non sono completamente incoraggianti. E poi c'è la stampa americana che questo viaggio in Asia non lo ha gradito affatto, il New York Times in testa, ma fanno un po' a gara in questo momento gli editorialisti a dare gran bastonate a Barack Obama e ai suoi per un viaggio da cui si è tornati tutto sommato a mani vuote. C'è un sondaggio della Gallup che continua a rilevare un gradimento presidenziale attestato su un risicato 50%, e c'è invece un rilevamento molto interessante fatto dalla Kennebec University, una delle più attendibili e credibili in questo senso, che prova a capire qualcosa di più, ovvero a fare qualche distinguo in più, e si apre per l'appunto un bivio, no? Una forchetta decisionale nei gusti degli americani, e si viene a capire che il 74% degli americani continuano ad apprezzare Barack Obama come persona, una persona con la quale andarsi a bere una birra, esclamano per esempio gli interrogati di sesso maschile, però quando si va a giudicare la qualità delle sue scelte politiche, questo 74% inverte le cifre e diventa un 47%, ovvero una minoranza. La persona piace, ma quello che fa e le scelte che produce assai meno. I nodi dell'Afghanistan e della riforma sanitaria sono naturalmente al centro della osservazione in questo senso. Il Wall Street Journal oggi arriva in edicola titolando addirittura: Obama si è scontrato con la grande muraglia. Evidentemente la passeggiata, no, mediatica fatta dal presidente sulla grande muraglia non è bastata a sedare la sensazione che in Cina sia stato ricevuto con cortesia, ma anche così, in modo piuttosto laconico. La visita è gradita, ma come dire, la carne, gli affari veri sono altrove, e molti dei sostenitori più influenti di Obama cominciano a esprimere dubbi sui giudizi nei confronti sulla qualità della prestazione del presidente, soprattutto negli ultimi mesi, quelli dopo dopo l'estate, a rallegrare un po' questi scenari piuttosto plumbei che ci lasciano intravedere un finale di legislatura 2009 sicuramente carica di angoscia, anche perché spera Obama di far passare la sanità prima di Natale, ma è tutt'altro che probabile che questo avvenga. C'è invece un ingresso nel gruppo di lavoro di Barack Obama che sorprende, che si riconnette con le dichiarazioni di metodo di qualche tempo fa, dell'inizio dell'amministrazione Obama, ovvero la volontà di assumere sempre e comunque una posizione e una rappresentanza bipartisan. Ebbene, torna a far parte dello staff di Obama niente meno che Dana Perino, ovvero la portavoce di George W. Bush, una repubblicana per quanto su posizioni moderate, una esperta di rapporti con i media, dallo stile assai diverso, diciamo, contraddistinto da proprio un approccio assai più secco, assai più asciutto, meno ironico di chi si occupa oggi, nella fattispecie Gibbs, dei rapporti con la stampa, più compagnesco, più ironico. Avrà un compito nel Broadcasting Board of Governors, un organismo che supervisiona i rapporti con le televisioni e i rapporti anche del governo con la televisione appunto sponsorizzata, pagata, sostenuta dal governo stesso, quella che noi chiamiamo televisione pubblica. Dana Perino, tra l'altro, ha lavorato a lungo con Fox e si muove nell'alveo di Fox, di conseguenza questo è da considerare un ulteriore passo in avanti in questa politica di pacificazione che evidentemente, dopo la guerra dichiarata di qualche mese fa, adesso la Casa Bianca vuole intraprendere nei confronti della grande struttura televisiva di Murdoch. Per Natale andranno d'amore e d'accordo. Bombshell news in the TV business. A short time ago we learned that tomorrow Oprah Winfrey will announce she is quitting her talk show. The woman who became known as the queen of all media is moving on as of September. Questa è la notizia invece che sta facendo più parlare sulle prime pagine dei giornali, in apertura, il titolo di apertura di CNN, in prima pagina sul New York Times, è al centro di tutti i notiziari americani in onda in questi momenti, mentre gli americani consumano la loro colazione, magari ormai già un po' tardiva, del venerdì. E la notizia è che Oprah Winfrey chiuderà il suo show, che è lo show semplicemente più famoso del mondo, non solo per le cifre che fa, che sono ragguardevoli, 7 milioni di ascoltatori, di spettatori tutti i giorni, il doppio di qualsiasi talk show dello stesso genere, ma perché nel farlo Oprah Winfrey letteralmente modifica tutti gli equilibri del universo mediatico americano. Lo fa, tra l'altro, Oprah non certo per andare in vacanza, ma per intraprendere una avventura ancora più grande e importante, ovvero per spostarsi armi e bagagli con il suo team, la sua squadra, la sua gente sulla pay TV, sulla cable TV, e da lì aprire una vera e propria rete tutta al suo servizio, una rete che metterà in scena in un certo senso il mondo di Oprah Winfrey. Infatti si chiamerà OWN, che vuol dire Oprah Winfrey Network, un dolore grosso per la CBS, che è il network che si occupa di distribuire lo show di Oprah Winfrey in tutta America. È un dolore ancora più grosso per la ABC, che è quello che invece lo manda in onda tutte le sere. Sono 25 anni che lo show va in onda tutti i giorni su ABC, e è anche una grossa preoccupazione dal punto di vista degli investimenti pubblicitari, che indubbiamente riceveranno un duro colpo da questa scelta di Oprah Winfrey. Il giorno finale di programmazione è stato oggi reso pubblico, 9 settembre 2011, poi ci sarà una brevissima finestra di tempo dopo la quale invece rivedremo, o rivedranno gli americani, la loro star televisiva più amata sul suo canale, dove continuerà, no, questo suo lavoro poi di condizionamento, di colonizzazione, diciamo, delle menti americane. Oprah è una che fa scegliere prodotti, che fa scegliere libri, film, che produce influenza sulle scelte culturali americane come nessun altro sa fare, e poi con questo suo continuo accentuato gusto dell'iperbole, chi va da lei va nello show più grande, fa l'intervista con più ascolto. Vi ricordo che la sua intervista a Michael Jackson è quella che si sostiene abbia mai avuto più ascolto nella storia televisiva del mondo, la sua intervista di questi giorni con Oprah, con Sarah Palin, è l'intervista più chiacchierata e più discussa dai media. Ebbene, tutto ciò si trasferirà in un canale in cui Oprah apparirà solo di tanto in tanto, sarà una specie di deus ex machina della messa in onda, non avrà uno show vero e proprio, questa è l'altra notizia che conta, l'Oprah Winfrey Show non si sposterà sul canale, sarà invece, come dire, tutta un'anima, uno spirito, una visione del mondo a prendere posto così nell'etere digitale, e quello diventerà una volta per tutti il mondo di Oprah. I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Unfortunately, this image that we have of a farm it creates a distance between our values and our actions. Because we continue to believe that the meat on our plate comes from these idyllic places. Questa è la voce di uno scrittore che si è rapidamente guadagnato un seguito, una grande simpatia anche tra i lettori italiani, soprattutto fra i più giovani. Si chiama Jonathan Safran Foer e in questo caso, come lo stiamo ascoltando e per gli argomenti che sta trattando, è ospite dello show di Ellen DeGeneres, dove sta promuovendo il suo libro e soprattutto la causa alle spalle del libro stesso, che non è un romanzo ma è un saggio più che altro, un pamphlet, anche se di grande portata, sono più di 300 pagine, si chiama Eating Animals, Mangiando Animali, ed è la vera e propria crociata che Jonathan Safran Foer ha deciso di condurre contro l'abitudine degli esseri umani di nutrirsi di altri animali, e promuovendo invece un vero e proprio viaggio mentale verso il diventare vegetariano, magari stuzzicando proprio alcuni luoghi comuni, alcune abitudini, anche alcuni piccoli culti che in tanti condividiamo, ad esempio i cartoni animati, no? La simpatia per gli eroi dei cartoni animati, su cui lui lungamente discetta nel suo libro, parlando di Nemo, di quel simpatico pesciolino, piuttosto che di Chicken Little, no? Che di quanto ci sia in comune tra Chicken Little e i Chicken McNuggets, che invece ordiniamo quando andiamo da McDonald's. La sostanza, lui dice, è la stessa, ma peraltro per arrivare a quella sostanza, a quelle pepite di pollo, una parola che è vagamente agghiacciante, via diciamolo, voi dovete capire, ragionare su quante torture vengono imposte a un essere vivente. Di queste atrocità si occupa il suo libro, con tutto naturalmente l'armamentario del politicamente corretto, di un'impronta metro radical, se vogliamo usare i termini in voga, come quella incarnata da Jonathan Safran Foer, ma sicuramente che riceverà ulteriore gradimento dai suoi lettori. Un'occhiata alle classifiche di vendita dei libri, la saggistica è quella che ci sta sempre a cuore, conferma il primo posto in attesa dell'arrivo dell'uragano Palin, di quel libro di cui abbiamo parlato qualche settimana or sono, Mitch Albom, si chiama Have a Little Faith, l'incontro tra un rabbino e un pastore battista nella città di Detroit, promosso, voluto dall'autore, insomma, modi diversi per scoprire la spiritualità anche in una grande metropoli. Tanti titoli di Malcolm Gladwell in classifica, famoso anche in Italia, no? Blink è stato un successo anche da noi. Ci sono ben due titoli nei primi sette in classifica sul New York Times: What the Dog Saw, che è una raccolta di suoi saggi pubblicati sul New Yorker, e Outliers, che è una indagine sul successo contemporaneo fatto da questo Gladwell, che è un divulgatore, un provocatore culturale, soprattutto direi in particolare un inventore di tendenze. Somewhere far far away there is a place where life is simple, children are carefree. E questo è un mondo di fantasia, naturalmente a cartoni animati, descritto in questo film, che è uno dei titoli principali che escono nei cinema americani in questo weekend, a cominciare da oggi. Si chiama Planet 51, Pianeta 51, una storia di vera computer graphic, come la chiamano le critiche americane, Top Flight, ovvero la migliore computer graphic, la più sorprendente e travolgente che potete vedere, ma pur sempre computer graphic. La storia e la teoria è molto divertente. Gli esseri umani invadono un altro pianeta, quindi rovesciamo un altro luogo comune, un pianeta tranquillo dove vivono degli alieni, no alieni, quella è casa loro, dove vivono gli abitanti molto tranquilli che agitano le loro antennine spaventati da questi astronauti americani, tutti peraltro un bel po' sovrappeso. Poi esce anche il remake del Cattivo Tenente, un film che fu già a suo tempo negli anni 90 un culto anche in Italia. Questa è la versione firmata da Werner Herzog con Nicolas Cage, giudicato in modo straordinario, plausi da tutta la critica americana, ma soprattutto esce Twilight New Moon, previsioni di incasso al botteghino in questi tre giorni a venire addirittura sopra i 100 milioni di dollari. Everybody tells me that wherever you go bedlam ensues and people go crazy and they chase you around. And it's berserk. Anche David Letterman si è messo a indagare sul fenomeno Twilight, insomma, a cercare di guadagnarci il suo virgola qualcosa di ascolto, invitando in trasmissione Robert Pattinson, che ha fatto una figura magrissima, guardando sempre la punta delle scarpe e rispondendo a monosillabi. A Letterman alla fine non ne poteva più, gli faceva domande a casaccio, ma tanto quello non rispondeva, mentre acuti critici della sociologia giustificano l'imminente iperboom di questa serie Twilight, spiegando che i furbi realizzatori ci hanno messo degli ingredienti in più e necessari, quindi un ulteriore richiamo per il pubblico maschile, che era rimasto un po' più freddino agli inizi, con Kristen Stewart che ha un ruolo, come dire, più sexy, e poi il raddoppio dei personaggi maschili. Adesso c'è il buono, così un po' pallido e vampirescamente fascinoso, Robert Pattinson, ma c'è anche il cattivo molto molto muscolare, che si chiama Taylor Lautner, che sostengono sempre i ben informati avrà fin da stasera un seguito straordinario. Take a breath, take a deep, calm yourself. In attesa della grande abbuffata che verrà consumata la settimana prossima, perché c'è il Black Friday, ovvero il giorno dopo il ringraziamento, quando grassi di tacchino gli americani montano sui loro enormi SUV e vanno nei loro enormi centri commerciali a fare il loro enorme shopping di Natale, e vi diremo quali sono i consigli e le indicazioni che si danno agli americani, ma forse non solo a loro, per sopravvivere a tutto ciò. Yes, I survived to Black Friday, scrivono sulle magliette, sono sopravvissuto al venerdì dello shopping. Il trucco è semplice: state su internet. Comunque si compra già qualcosa anche in questo weekend, per esempio un CD nuovo. Il più gettonato dalla critica americana è questo, ovvero il nuovo album di Rihanna, una vera e propria eroina dei consumi giovanili, perché poi il mercato che tira è quello, i padroni del mercato, Twilight e Rihanna insegnano, sono assolutamente loro. Nuovo album per Rihanna, no? La ragazzina che prima era una Lolita, poi è diventata un personaggio da cronaca nera quando è stata picchiata dal fidanzato, arriva con un album che si chiama Rated R, quindi con una versione più adulta, e una produzione con gli strafiocchi, quella di Justin Timberlake. E gli americani, crisi o non crisi, consumano in un weekend che già comincia ad orare di Natale. Altre cronache qui da Buongiorno America a partire da lunedì. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Carmelo Lauricella a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte. Ci sentiamo invece lunedì sempre da Radio 24. Un ottimo weekend a tutti.